ci sono tantissime novità. Innanzitutto siamo giunti alla terza edizione e devo dire che questa è già una prima informazione e non è affatto scontata, perché non è così semplice. La Città delle Donne parte proprio con l'obiettivo di mettere al tavolo una pluralità di voci, perché come dice un detto diffuso nella politica anglosassone, se non sei al tavolo sei sul menù. Quindi occorre prendere coscienza e occorre mettersi al tavolo per inaugurare questo cambiamento. In realtà è un cambiamento che è già iniziato, cerchiamo di farne parte, cerchiamo di incentivarlo questo cambiamento. E quindi questa settimana, dal 16 al 18 di ottobre, cercheremo di arrivare a più persone possibili attraverso la narrazione, attraverso il racconto, attraverso lo storytelling, attraverso una pratica femminista che è il racconto del sé. E quindi ci saranno tantissimi workshop, ci saranno tantissimi incontri, ed essendo la Città delle Donne che si ispira alla città femminista di Leslie Kern, per la prima volta avremo anche la sua testimonianza, un video in esclusiva che aprirà proprio questa terza edizione. Il tema della passata edizione era le periferie. Qual è invece il filone che guida questa edizione? Il tema di questa edizione è la pluralità di voci. Cerchiamo di allargare le maglie del discorso a un femminismo intersezionale. Cerchiamo di avere al tavolo davvero tutte le donne possibili, ma anche gli uomini naturalmente, perché crediamo fortemente nelle reti, crediamo fortemente nelle alleanze. E quindi quello è un ottimo punto di partenza. Ci mettiamo al tavolo, cerchiamo di discutere, cerchiamo di scambiarci opinioni e cerchiamo davvero di parlare di buone pratiche, ma anche poi di metterle a terra queste buone pratiche, perché la Città delle Donne, è vero, esplode nel mese di ottobre, ma poi tutto l'anno cerca di arrivare a più persone attraverso la formazione, attraverso workshop gratuiti, attraverso incontri, e quindi naturalmente è una realtà che è sempre più radicata nel territorio e che cerca naturalmente di andare avanti. La figura ispiratrice di quest'anno? Ogni anno abbiamo una figura ispiratrice. Quest'anno la nostra figura ispiratrice sarà Gentile Budrioli e cercheremo di andare a scoprire un po' che cosa c'entra in questa edizione. Lo faremo attraverso una passeggiata in alcuni luoghi simbolo della città, lo faremo in compagnia di un medievalista e cercheremo di andare un po' a comprendere quelle che sono le maldicenze di ieri, ma anche quelle di oggi, quindi attacchi frontali a cui ancora oggi assistiamo nei confronti delle donne che ricoprono un ruolo di potere. E quindi questa illustrazione, come ogni anno, è stata affidata a un artista. Quest'anno è Shanice Alogaga, che sarà con noi durante l'inaugurazione della Tre Giorni e che ci presenterà proprio la sua ispirazione, quello che l'ha guidata, quello che l'ha ispirata nell'illustrazione di Gentile Budrioli.